lasciato dalla malinconia come un sasso, usato dalla vita di un amore impossibile, cadere più giù, in un mondo parallelo, accarezza per spegnermi dolcemente, rientrare dentro in quell'amore così buio, senza uscirne fuori. Se la mente potesse ascoltarti, se solo il mare potesse abbracciarti, la perfezione dei sensi ammaliarti di nuovo, discendi per proteggere il mio spirito cupo, che il gelo dei miei occhi potesse compensare il fuoco che brucia, per poi essere cenere e volare via col vento.